Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, un buon inizio di anno da parte mia, Giampaolo Musumeci, ma anche da parte di Gianni Rosini, che ha confezionato con me questa puntata speciale di Nessun luogo è lontano. Così come quella andata in onda nel periodo natalizio, ci siamo sganciati dalla stretta attualità per offrirvi un punto di vista, un approfondimento, un grand'angolo, come andiamo a ripetere, per guardare e osservare meglio quello che accade al di fuori dei nostri confini. Ebbene, un tema di crescente preoccupazione è quello riguardante la facile disponibilità di armi all'interno dell'Unione Europea, confini purtroppo porosi da questo punto di vista e controlli evidentemente non sufficienti hanno poi portato a quei tragici effetti, a quei tragici eventi di Parigi. Di recente anche il rinvenimento nei pressi di Pordenone di un camion pieno di un centinaio di fucili a pompa ha mostrato, insomma, ancora una volta come i trafficanti di armi leggere siano assolutamente in piena attività. Di questo si occupa questa puntata di Nessun luogo lontano. Vi introduco subito il primo ospite. Allora, buona giornata e ben ritrovato Francesco Vignarca, coordinatore di Rete Disarmo, voce autorevole, forse la più indicata per iniziare a tratteggiare i temi fondamentali che affronteremo in questa puntata di Nessun luogo è lontano. Armi, traffici illegali di armi, i recenti tragici eventi di Parigi ci hanno ricordato quanto, ahi noi, sia facile far transitare armi attraverso i confini anche europei. Francesco, buongiorno, ben ritrovato a Nessun luogo è lontano. Buongiorno a tutti voi. Ti chiedo innanzitutto una fotografia che ci aiuti a comprendere le dinamiche e le caratteristiche di questo mercato illegale. Che caratteristiche ha il traffico illegale di armi, soprattutto europeo? Prima di tutto dobbiamo metterci nell'ottica di capire che il traffico di armi è residuale rispetto al commercio di armi. Le armi in giro per il mondo se ne vanno con tutti i crismi di ufficialità, con tutti i bolli delle dogane, e successivamente, diciamo quasi a cascata dal commercio legale, che parte il commercio legale, il traffico più specificamente illegale di armi. Per darvi un'idea, il 5% delle armi che girano per il mondo è trafficata illegalmente, il resto è trafficata legalmente oppure inizia il suo percorso verso il mercato nero, e questo è molto importante. Ovviamente le dinamiche sono diverse se guardiamo sistemi d'arma, cioè aerei, cacciabombardieri, navi da guerra, o armi piccole e leggere, quindi come fucili, mitragliatori, pistole, perché è molto più facile spostare queste ultime rispetto che le prime. In questo caso bisogna stare molto attenti, perché un elemento fondamentale da ricordare è che un'arma non scade, non è come un alimento che dopo pochi giorni non si può più consumare. Un'arma, se tenuta bene, può essere efficiente per 50, 60, 70 anni, e questo quindi ci impone di essere molto bravi all'inizio, cioè di capire dove vanno le armi, perché non sempre dove le mandiamo per la prima volta o dove vengono mandate per la prima volta in maniera legale è il luogo dove rimangono fino alla fine. In questa puntata di Nessun luogo lontano ci concentriamo in particolare sulle armi piccole, che non necessariamente hanno, come dire, effetti attenuati, perché pensiamo appunto alla facilità nello smontare, nel trasportare un Kalashnikov, e alla sua potenza distruttiva. Non parleremo, non tratteremo di sistemi d'arma complessi e il cui trasporto e la cui commercializzazione pur illegale richiede anche una catena logistica differente. È importante, abbiamo sottolineato, la doppia vita, è corretto Francesco Vignarca? In realtà tutto il traffico illegale ha prima avuto una sua parte visibile, emersa e legale, poi però ci sono dei nodi più deboli, ci sono dei mancati controlli, ci sono delle inefficienze che permettono a un'arma di vivere una sua seconda vita oscura. Assolutamente. Il punto è che non dobbiamo accontentarci del primo passaggio. Magari inizialmente l'arma viene mandata a uno Stato, a un sistema di polizia, a una forza armata riconosciuta, però non sono tutte la stessa cosa. Non possiamo paragonare, ad esempio, le forze armate della Svezia e della Finlandia con quelle dell'Iraq. Non dico Iraq a caso, perché Iraq, insieme all'Afghanistan, è stato il luogo dove negli ultimi anni si è più concentrata questa seconda vita delle armi, cioè venivano fornite in particolare arrivare dalle coalizioni occidentali, in particolare dagli Stati Uniti, moltissimi armamenti per ricostruire in un certo senso le forze armate dopo l'intervento militare occidentale, però queste armi poi finiscono in mano a chi magari ha più convenienza a rivendersele, ha più convenienza a passarle a gruppi terroristici o gruppi armati che non sono regolari, e non possiamo far finta che basta un timbro iniziale, basta un accordo formalmente corretto per poi avere tutto sotto controllo. Ad esempio gli Stati Uniti negli ultimi mesi hanno dichiarato di non sapere dove ne siano finiti in Yemen 500 milioni di controvalore di armamenti. Non stiamo parlando di 1, 2, 3, 4 pistole. Una volta che questi sistemi d'arma o questi armamenti in particolare leggeri finiscono in quel giro, non si sa più da che parte arriveranno e che fine faranno. Un esempio studiatissimo proprio che riguarda l'Italia: circa 30.000 pistole Beretta prodotte inizialmente in Turchia, riconfigurate in Italia grazie a un codicillo in una legge di stabilità e triangolate tramite il Regno Unito, finite ancora in Iraq in mano ai ribelli e trovate a sparare qualche anno fa contro i nostri soldati dispiegati in Iraq. Questo secondo me è la storia che spiega molto bene perché le armi non possono essere considerate un materiale deperibile e perché succede che alla fine si trovino nei luoghi dove non vogliamo che siano. Allora, due le parole chiave, se posso riassumere questo inizio di ragionamento: da un lato tracciabilità, che è la cosa forse fondamentale, e dall'altro l'assenza di data di scadenza. E mi viene in mente sempre, parlando appunto della vita, della longevità di alcune armi, il caso eclatante che è quello, ai noi, che è tornato alla ribalta delle cronache degli attacchi di Parigi, il fucile, la K-47, che è un'arma incredibilmente semplice, incredibilmente efficace, forse tra le più longeve delle armi che possiamo rinvenire anche sul mercato illegale. Vi sono Kalashnikov che hanno sparato in Afghanistan e che adesso sparano ad esempio in Sudan o in Sud Sudan. Francesco Vignarca, coordinatore di Rete Disarmo, in parte hai già tratteggiato quelli che potrebbero essere paesi virtuosi e paesi canaglia, cioè paesi dove i controlli non sono sufficienti e dove quindi si allargano le maglie e lì appunto si permette questa seconda vita appunto alle armi. Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un sistema mondiale di tracciabilità delle armi? Cioè che passi mancano in buona sostanza per evitare la seconda vita, quindi il commercio illegale delle armi? Ovviamente questo per noi è un primo passo, perché noi in prospettiva saremo per il disarmo, però è fondamentale perché in ogni percorso di disarmo c'è una fase di cosiddetto transarmo, cioè di diminuzione o quantomeno di controllo molto forte sugli armamenti. Sicuramente sull'armamento leggero la tracciabilità non può essere solo sulla carta, perché se sulla carta può andare bene per un elicottero, perché appunto l'abbiamo detto è difficilmente trasportabile, per essere gestito ha bisogno di un supporto logistico ingombrante, per una K-47, per un fucile, per un Uzi, per un M16, questa cosa non succede. Allora sicuramente i sistemi di tracciabilità devono essere hardware, cioè inseriti direttamente nell'arma, microchip tracciabile, lo possiamo fare per tutto, per i cellulari che abbiamo, per tutta una serie di beni che vengono commerciati in giro per il mondo, non si capisce perché non si possa fare per un'arma e non si capisce perché non si possa fare in maniera realmente controllabile, nel senso che se anche uno tenta di manomettere il chip o il sistema di riconoscimento, a quel punto la segnalazione è evidente e ne deve essere ritenuto responsabile direttamente chi invece ha ricevuto l'arma in maniera legale. Se io vendo una partita di 100 fucili al governo del paese Y, nel momento in cui quei fucili non li riesco più a tracciare tramite un sistema tecnologico avanzato o che questo sistema viene in qualche modo tolto dal fucile stesso, la responsabilità è anche di quel governo, che ne deve subire le sanzioni, perché se no il rischio è quello di dire: non è colpa mia, non so dove siano finite, ma su quelle armi le deve controllare, perché non stiamo parlando di cioccolatini. Francesco Vignarca, perché secondo te i produttori di armi non accolgono questa richiesta che riguarda la tracciabilità? Peraltro mi vengono in mente esempi di commercializzazione di prodotti molto più di uso quotidiano, ecco, mettiamola così, ad esempio le etichette intelligenti, no? Fatte di microchip, esatto, che possono andare su prodotti di lusso per la tracciabilità o per l'anticontraffazione. Addirittura alcuni produttori vinicoli si stanno dotando di queste bottiglie con un microchip che identifica esattamente l'annata del vino, eccetera eccetera, insomma, ma stiamo parlando di prodotti di uso quotidiano. Perché i produttori di armi non acconsentono a questa proposta? Questa è una domanda che mi faccio spesso anch'io, nel senso che dovrebbe essere nel loro pieno interesse, anche perché ovviamente le aziende produttrici, quelle produttrici diciamo originali, non chi magari acquisisce la capacità successivamente o perché ha rubato i progetti o perché gli sono stati in qualche modo venduti, lasciati in franchising, e quelli hanno altre necessità e altri obiettivi, ma i produttori, ripeto, originali, dovrebbero avere tutta l'interesse a dire le nostre armi finiscono solo in luoghi che sono autorizzati dalla legge in qualche modo, perché ovviamente quando anche la riconfigurazione delle armi, che è uno snodo fondamentale, in particolare ad esempio nelle armi usate negli attentati terroristici qui in Europa, spesso e volentieri ci sono degli hub in cui i terroristi vanno a rifornirsi, e non sono degli snodi di capacità tecnica industriale. Il Belgio non è casualmente un luogo dove queste armi si trovano, perché il Belgio storicamente è un'area, in particolare la Vallonia, dove c'è produzione di armamenti, capacità di riconfigurarli, quindi le vecchie armi che vengono portate avanti e indietro e che arrivano in quella zona vengono risistemate dagli armaioli e rese ancora più efficienti, o rese efficienti come all'inizio. Ecco, in quel caso è chiaro che l'azienda produttrice iniziale non ha nessun profitto, non ha nessun vantaggio da quella riconfigurazione, da quell'acquisto illegale, e quindi non si capisce perché non possa mettere una tracciabilità forte all'inizio che gli consenta di vendere direttamente nella maniera legale iniziale, e poi, siccome tanto dopo, anzi è molto più contenta nel caso che la sua arma non finisca in queste situazioni, avere un blocco. Questo ovviamente non funziona per tutti quei produttori di armi che non hanno una certificazione in un certo senso, una sanzione positiva dal punto di vista della legge, o che magari vengono da tutti quei paesi che hanno acquisito questa capacità in passato. Pensiamo ad esempio a tutti i paesi satellite dell'Unione Sovietica, zone come la Transnistria, tra la Moldavia e la Romania, che fanno della produzione di armi praticamente la parte maggiore del loro PIL. In quel caso è chiaramente una produzione che il più possibile vuole rimanere sotto traccia, ma in quel caso deve essere la comunità internazionale a bloccare questo tipo di dinamica, e spesso e volentieri invece sono stati anche i nostri paesi a favorire queste zone grigie, perché permettevano delle azioni magari sotto copertura o non esplicite che sembravano potessero funzionare proprio non so, per rifornire di armi nostri amici o nostri alleati. Il problema è che questa cosa non funziona, perché non siamo nei film di Hollywood, non si sa mai dove possano finire le armi, ed è per questo ad esempio che noi abbiamo protestato tantissimo per la cessione che l'Italia ha fatto l'anno scorso verso i peshmerga curdi di vecchi residuati bellici appunto degli anni 70, che erano stati requisiti dei trafficanti ucraini, e che si sa dove sono finiti adesso, perché quella zona, ovviamente, parliamo della zona tra la Siria e l'Iraq, non è facile da controllare. E anche questo è un racconto molto interessante, cioè vecchie armi prodotte negli anni 70 in Bulgaria, che stavano finendo nelle guerre balcaniche, una parte ce ne sono arrivate, sono state intercettate, dovevano essere distrutte, l'Italia le ha tenute invece nei propri magazzini e alla prima necessità, tra virgolette, le ha rimesse in un qualche modo sul mercato della circolazione. Io non so dove finiranno quelle armi, ed è grave che non vengano tracciate nel momento in cui uno Stato le recupera e le potrebbe gestire meglio per un'ulteriore vita. Stiamo parlando veramente di armi che hanno 40-50 anni, e questo vi fa capire che non possiamo trattare le armi appunto come una mozzarella che scade fra 4 giorni. Allora, Francesco Vignarca, rimani con noi, perché ti propongo una chiacchierata che abbiamo realizzato io e Gianni Rosini con Cédric Poitevin, che è un ricercatore di questo think tank belga, il GRIP, Gruppo Ricerche sulla pace e la sicurezza, una chiacchierata molto molto interessante, che però vi faccio ascoltare subito dopo una piccola pausa. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione, qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione, e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. nessun luogo è lontano. Ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, puntata speciale tutta dedicata all'analisi del traffico di armi dopo i recenti tragici fatti di Parigi. Per fotografare quello che è lo stato dell'arte e la facilità con le quali alcuni confini vengono passati, alcune armi vengono facilmente commercializzate illegalmente in Europa, abbiamo raggiunto Cédric Poitvin, che è il capo delle ricerche del GRIP, il gruppo di ricerca di informazione sulla pace e la sicurezza. Nella chiacchierata molto interessante che abbiamo fatto con Cédric, la prima domanda è stata quali sono ovviamente i flussi del mercato illegale di armi diretti verso l'Unione Europea. Sentite che cosa ci ha detto. The first thing I have to say is that you have to understand that until a few years ago, two or three years ago, the fight against against firearms trafficking or small arms proliferation within the EU was not as such a priority. Ciò che dobbiamo dire è che la lotta al traffico illegale di armi all'interno dell'Unione Europea fino a un paio di anni fa non era considerata una priorità. Per capirci, non era considerata così importante o urgente quanto il traffico di droga o esseri umani. Dico questo perché se non si considera qualcosa come una priorità, allora non vi si investono soldi, risorse umane, strutture per fare ricerca e risolvere problemi. Per questo non esiste un database o un grande elenco di fonti riguardo ai flussi illegali di armi nell'Unione Europea. Ci affidiamo molto alle esperienze di persone che operano sul territorio, come le polizie. Non sto dicendo che la loro esperienza non è importante, al contrario. Ma se si rimane su questo livello di analisi, si perdono molte informazioni. Faccio un esempio. Quando trovi un'arma in mano a un criminale, la priorità è quella di catturare il malfattore e processarlo. Solo dopo, se vuoi far incriminare questa persona per processo illegale, prendi in considerazione l'arma e cerchi di capire da dove viene e come è finita in mano al criminale. Il lavoro delle polizie e dello Stato spesso finisce qui, ma bisogna iniziare a raccogliere informazioni per ogni arma che si trova all'interno di un mercato illegale, dentro e fuori dal tuo paese. Così puoi anche individuare gruppi di armi che provengono dalla stessa fornitura e magari stabilire se queste erano in mano a un esercito regolare o a una polizia locale e quindi capire che in questi contesti vi è un problema legato al traffico di armi. Questo è stato fatto solo negli ultimi mesi in Unione Europea. Se tu raccogli metadati, puoi capire qual è lo schema e quindi sconfiggere il mercato illegale di armi. La prima cosa che dobbiamo capire è come le armi si muovono nell'Unione Europea e cercare di individuare le falle, i punti di passaggio tra il mercato legale e quello illegale. Illegal markets and illegal trafficking of weapons. A Cédric Poitvin a questo punto però abbiamo chiesto se si conosceranno almeno le principali fonti o aree geografiche. Sentite. You have to differentiate two types of weapons. Let's say the military grade weapons, assault rifles and that kind of weapons, and the handguns. Dobbiamo distinguere tra armi civili e armi militari. Molti criminali scelgono di usare armi civili, soprattutto per compiere reati minori, come una rapina, perché le usi principalmente per impaurire le persone e non per ucciderle. Fucili d'assalto e armi da guerra sono invece usati da chi ne ha bisogno per uccidere, come terroristi o criminali di un certo calibro che assaltano mezzi in movimento. Per quanto riguarda le armi militari, la prima fonte sono i Balcani. Balcani però vuol dire molte cose, non solo armi fabbricate in quell'area. Ci sono quelle fabbricate per la guerra e che sono ancora lì, altre che invece sono ancora in giro e altre arrivate lì durante la guerra, anche se non fabbricate in quell'area. Ci sono molti modi per portare queste armi in Unione Europea. Generalmente si prendono poche armi e le si trasportano anche nel baule della propria auto ed è relativamente semplice farle entrare così in Unione Europea. Molti lo fanno perché se compri armi nel tuo paese a poche centinaia di euro e le rivendi per migliaia di euro nel mercato europeo, questo diventa un mercato dal grande profitto. And sell them for a few thousand euros within the EU, that's a profitable market for you. A Poitvin, capo del ricerche del gruppo di ricerca di informazione, scusate il gioco di parole, sulla pace e la sicurezza, questo centro di ricerca di base a Bruxelles, abbiamo quindi chiesto se si tratta solamente di piccole spedizioni e se sia questa la chiave di volta del fenomeno. That is very difficult to monitor. There are still weapons coming from those countries now to the EU, but You have to understand that they are also, sì, e per questo molto difficili da monitorare. Poi ci sono anche armi che provengono da questi paesi e si trovano in Unione Europea dagli anni 90, ma che però continuano ad essere mosse da un paese all'altro in base alle esigenze e alle richieste del mercato illegale. È così che magari qualche fucile presente in Belgio finisce nelle mani di criminali francesi. L'altra cosa che avviene è che certe armi passano dalle mani di rivenditori autorizzati, soprattutto armi sportive o da caccia. Oppure queste armi possono arrivare anche dalle polizie o dagli eserciti, ma abbiamo veramente poche informazioni su questo. Quindi non possiamo dire se situazioni del genere sono prevalenti o no. But we have very little information about that, so we don't know if that's something that's prevalent or not. Possiamo quindi dire che gran parte del traffico illegale derivi da un mancato o cattivo controllo delle armi che originariamente, l'abbiamo già detto, erano nel mercato legale, ossia in mano a polizie ed eserciti. Sentite. During a war, often the border between who is a soldier and who is a civilian is sometimes very narrow, and civilians may end up procuring weapons, assault rifles, quite easily. Durante una guerra, il confine tra l'essere un soldato e un semplice cittadino è spesso ristretto. Così è relativamente facile per un cittadino procurarsi un'arma. Dopo la fine del conflitto, poi, lo Stato non è così forte da riuscire a monitorare la presenza e i traffici di armi. E questo è quello che è successo nei Balcani. Gli Stati erano deboli ed era facile fare business con il traffico di armi. E stiamo parlando di un enorme quantitativo di armi. Ciò che era importante fare in Unione Europea, contemporaneamente alla libertà di movimento di persone e merci, era una legislazione condivisa riguardo alla detenzione di armi. Se non hai confini, è relativamente facile far circolare armi da un paese dove è legale acquistare e detenere un'arma verso un altro dove questo non sarebbe permesso. È iniziato un processo di armonizzazione. Non è uniforme. Ci sono ancora differenze. Vediamo che nonostante si stia andando verso un'armonizzazione, il mercato illegale si adatta alla nuova legislazione. Cosa abbiamo notato negli ultimi attentati? Queste armi usate erano state disattivate, ovvero erano diventate armi che non sparano ed erano destinate a musei o al mercato dei collezionisti. Cosa accade però? Tra i vari paesi dell'Unione Europea ci sono diversi standard di disattivazione e molte delle armi usate nell'attentato di Parigi erano state disattivate in Slovacchia. Loro hanno cambiato la legge a luglio, ma fino a quel momento gli standard di disattivazione erano bassi ed era relativamente facile riattivare un'arma disattivata in Slovacchia. È difficile acquistare un fucile d'assalto in Europa. Per questo i terroristi preferiscono acquistare armi disattivate per poi riattivarle. Le armi disattivate non erano considerate come le altre. Inoltre, i confini dell'Unione sono circondati da paesi pieni di armi e con leggi molto meno restrittive. E questo facilita i flussi da quei paesi. It is still possible to find the weapons, especially because we are bordered by countries where there are a lot of weapons available in the illicit markets and where the legislation are not as strong as in the EU. A Cédric Poitevin però facciamo osservare che vi sono paesi nell'Unione Europea dove sembra più facile acquistare armi come quelle appunto usate negli ultimi attentati, si pensi per esempio al Belgio. Sentite che cosa dice il ricercatore. If you want to plan a terrorist attack in Athens, you will not buy your weapons in Belgium. Se vuoi fare un attentato ad Atene, non comprerai armi in Belgio. Il Belgio è un piccolo paese, centrale e collegato con altri stati come Francia, Germania, Olanda e anche Inghilterra. Se si guardano i profili degli attentatori degli ultimi attacchi, si nota che si tratta di persone che parlano francese, collegate ai network criminali. A Bruxelles e nella parte meridionale del Belgio si parla francese e questo è un elemento di collegamento che deve essere considerato, anche se ci sono certamente altri fattori. Inoltre, esiste un'importante cultura delle armi in alcuni alcune parti del Belgio grazie a una lunga tradizione di caccia e armi da sport. Quindi ci sono molte persone che conoscono come si usa un'arma. Ad esempio, però, nell'attentato al Museo Ebraico di Bruxelles sembra che le armi siano state comprate in Francia. Quindi ci sono elementi che ci indicano il Belgio come uno degli hub dove acquistare e vendere armi nell'Unione Europea, ma non è l'unico. Inoltre, uno dei fucili usati da Koulibaly era un'arma disattivata in Slovacchia e acquistata da qualcuno in Belgio, che poi l'ha venduta a qualcun altro in Francia, che apparentemente l'ha ceduta poi a Koulibaly. Someone in Belgium who then sold it online to another person in France who apparently sold it to Koulibaly. Ultime due domande per Cédric Poitevin di questo gruppo di ricerca con sede a Bruxelles, il GRIP. Quali sono gli altri hub europei delle armi? Sentite. I mean, it's quite difficult to that is something that's a very difficult question because there is È una domanda a cui è veramente difficile rispondere. C'è una carenza di informazioni su questo. Parlando di questo argomento, dico sempre che i criminali tendono a rapportarsi con i partner locali. Se hai bisogno di un'arma, la prima cosa che fai è cercare di averla da qualcuno che conosci o con cui vieni messo in contatto. Solo se non le trovi così, puoi cercare armi online o in altri paesi. Con la crescita della vendita online, abbiamo assistito a una continua decentralizzazione del fenomeno. Se abiti in Danimarca o in Svezia, puoi andare a comprare armi in Belgio. Se sei in Spagna, no. Sweden, you won't go to Brussels. If you're in Spain, that's the same. So it's it's difficult to speak in terms of hub. E infine, ci sono paesi dell'Unione Europea in cui le leggi favoriscono il traffico illegale rispetto ad altri stati dell'Unione? Sentite. It's difficult to say that there are countries where the legislation is in favor of that kind of people. It's always a question of loopholes. There were loopholes in terms of deactivation procedures in many countries. È difficile dire quali siano i paesi che favoriscono con le loro leggi questo tipo di persone. È sempre un discorso locale, come quello della legge sulle armi disattivate slovacche, tedesche e di altri paesi. La legislazione europea è stata cambiata proprio riguardo a questi problemi. Oggi le armi disattivate acquistate su internet devono rispettare le nuove normative. Questo è certamente un importante passo in avanti che chiude molti traffici dentro l'Unione Europea. In Belgio abbiamo deciso di cambiare la legge nel 2006 perché era troppo semplice andare in un negozio e acquistare un'arma semplicemente fornendo la propria carta d'identità. Il venditore aveva poi una settimana di tempo per comunicare le tue generalità alla polizia, così che le forze dell'ordine potessero fare tutti i controlli. In Belgio però ancora non abbiamo dati definitivi su chi detiene legalmente un'arma. Nonostante sia stata fatta una nuova legge, ci siano i controlli e, si suppone, ogni acquirente fornisca i propri dati quando compra un'arma. Questo dovrebbe valere anche per gli altri paesi dell'Unione Europea, ma in realtà sono dati che sono difficilmente reperibili e che fanno fatica a circolare. Ci sono persone che comprano armi per la caccia o per praticare sport, ma i controlli devono esserci per essere sicuri che quello sia il loro reale utilizzo e che non finiscano nel mercato illegale. And to make sure that those weapons are used for the reasons that they are bought for, and that those weapons do not end up in the illegal market. E questa era la voce di Cédric Poitevin, ma torniamo con Francesco Vignarca, coordinatore della rete Disarmo. Caro Francesco, perché per te ho una domanda da $1 milioni, cioè vorrei capire con te come e se si può tratteggiare il profilo del trafficante di armi. Io su questa domanda cosa, da $1 milioni, mi rendo conto. Più che altro è che bisogna un po' togliersi dall'idea di trafficanti che in maniera oscura facciano tutto da soli. Io ho messo, diciamo, in quarta di copertina del mio libro Armi un affare di Stato una citazione di Balfour Gate, che era un trafficante di armi degli anni 80, che dice: dimenticatevi i film, dimenticatevi le cose losche, se c'è qualche partita d'arma che sta girando per il mondo probabilmente dietro c'è un'agenzia governativa o qualcuno che lo sa. Senza arrivare alla spettre, no? Cioè sì, a pensare che comunque ci sia un grande vecchio che controlla tutto. Da un certo punto di vista è vero, nel senso che più di una volta, andando ad incrociare quelli che sono stati i grandi trafficanti di armi, penso a Victor Arthur Booth, penso a Leonid Minin che era stato arrestato in Italia, si va a vedere che comunque in qualche modo magari l'incrocio con delle realtà statuali è stato ottenuto, non sempre con le realtà statuali più consolidate, quindi con i paesi dell'Occidente o magari anche con la Russia, la Cina, quindi gli stati più forti, ma spesso e volentieri con gli stati molto deboli, in particolare nella zona africana, sempre più anche in Asia, perché in quel caso ovviamente si riesce a ottenere tutta una serie di documentazioni che è necessaria per il commercio di armi, ma la si ottiene in maniera corrotta e quindi come dire, coprendo in qualche modo le proprie tracce. Questa cosa funziona sia a livello alto di chi ha le coperture giuste e magari poi ha una carriera lunga, il già citato Victor Booth, che anche quando è stato poi arrestato e estradato negli Stati Uniti, la Russia ha cercato di proteggerlo, di portarselo a casa per mesi, ma anche quando, questa cosa cerca di avvenire anche quando magari i trafficanti sono solo dei dilettanti allo sbaraglio. È in corso a Perugia un processo di un gruppo di italiani che ha provato il grande colpo ai tempi, circa 6-7 anni fa, a esportare 500.000 Kalashnikov dalla Cina, delle repliche di Kalashnikov dalla Cina alla Libia. Anche in quel caso, pur che si sono fatti beccare subito per tutta una serie di problemi, loro cercavano di avere, in particolare dalla Repubblica del Congo, da dei consoli della Repubblica del Congo, tutta una serie di documentazione giusta, precisa, legale. Ecco, questo è interessante perché è anche una forza in un certo senso nel tentativo di controllare questi trafficanti di armi. Qui stiamo parlando ovviamente di vendite di una certa rilevanza, perché il traffico spicciolo, quello di 1, 2, 3 armi, quello ovviamente da questo punto di vista ha dinamiche completamente diverse e dipende molto anche dal luogo in cui si è. Un amico che lavorava per il GRIP e ha lavorato per le Nazioni Unite mi raccontava che in Burundi ogni 10 minuti lui vedeva 5, 6, 7 fucili o Kalashnikov passare, perché il semplice contadino andava a zappare la terra con il fucile in spalla. In quel caso è proprio una situazione, come dire, strutturale della società che vede la diffusione degli armamenti, e in quel caso il traffico o la circolazione della singola arma ovviamente è più, come dire, spicciola e diretta e non prende le dinamiche dei trafficanti più grandi, che invece hanno bisogno anche di logistica, di trasporto, e come ha ben mostrato, e lo consiglio a tutti se volete davvero capire questo mondo, il film Lord of War con Nicolas Cage, che è stato diffuso nel 2004, che era stato appunto creato appositamente su tutta la documentazione delle nostre campagne internazionali. Grazie mille Francesco Vignarca per essere stato con noi. Grazie a voi. Questo è sempre Nessun Luogo Lontano, in una puntata tutta dedicata al traffico di armi dentro l'Unione Europea. Abbiamo tratteggiato quelli che sono gli attori, quelle che sono le dinamiche di questi traffici. Apriamo il capitolo politico, perché forse è quello più importante, perché da esso potrebbero scaturire le risposte. Per questa ragione abbiamo raggiunto Bodil Valero, che è una parlamentare europea particolarmente impegnata sul tema, alla quale abbiamo innanzitutto chiesto qual è la risposta dell'Unione Europea, la risposta politica per combattere il traffico di armi. Sentite. I think that we have to start with the legal selling of arms, of course, because we have a lot of the arms going out from Europe. Credo che si debba partire certamente dal traffico legale, perché abbiamo armi che vengono vendute fuori dall'Europa e poi tornano indietro. Dobbiamo avere un controllo migliore di ciò che vendiamo, ma anche cercare di contrastare il traffico illegale di armi. Siamo in una situazione con molte armi che sfuggono ai controlli sull'export, e queste armi sono molto più difficili da tracciare rispetto alle altre. Dobbiamo avere leggi stringenti sia sulle armi militari che su quelle a uso civile. We have to have stricter rules both for military arms and for arms for civilian use. Siamo con Bodil Valero, parlamentare europea, deputata del gruppo Verde Alleanza Libera Europea, deputata di origine svedese, particolarmente impegnata in tutte le tematiche riguardanti le armi e il traffico di armi. A lei abbiamo chiesto quanto sia importante sottolineare ancora una volta, l'abbiamo fatto più volte in questa puntata, la precedente vita legale delle armi. Quanto è importante anche per le risposte della politica? Sentite. Exactly, because we don't use we should use better end user. Certo. Per questo dobbiamo avere continui controlli sui certificati. Per esempio, nel mio report si legge che si deve provvedere a continue ispezioni, perché stiamo parlando di armi che possono essere usate per 10, 20, 30 anni e quindi sono armi che dobbiamo seguire per capire dove si trovano. Le armi non possono essere considerate come un prodotto qualsiasi e dobbiamo controllarle per tutta la durata della loro vita. quindi penso che si debbano fare ispezioni più accurate e mirate. Dobbiamo controllare la situazione nei vari paesi e stoppare la vendita di armi, ma anche avere un controllo sugli utilizzatori finali. Bodil Valero pensa che vi siano attori con i quali è più facile parlare piuttosto che con altri? Sentite. La grande difficoltà si ha con i grandi esportatori di armi, perché chiaramente loro vogliono continuare a vendere. La situazione è quella di una mancanza di conflitti in Europa per molti anni e per questo i produttori non possono vendere agli eserciti o agli stati europei. Quindi loro sono obbligati ad esportare e promuovono l'esportazione di armi in altri paesi. Ma adesso abbiamo una situazione di sicurezza totalmente differente con paesi vicini in guerra, senza sapere che fine facciano le armi che vendiamo loro. We cannot say exactly where the arms came from, but it shouldn't be that easy to get those arms. L'ultima domanda per la parlamentare europea svedese Bodil Valero, Gruppo Verde, Alleanza Libera Europea, una delle parlamentari forse più impegnate nella lotta, nelle risposte politiche al traffico di armi. L'ultima domanda è: come giudica le risposte europee? Non è che gli stati europei si muovono in maniera troppo lenta nella loro risposta, mentre i criminali, come al solito, sono estremamente veloci? Sentite che cosa ci ha detto. I agree to a certain extent, but it's also when sometimes the criminals, they are very fast. Sì, posso essere d'accordo, ma i criminali sono molto veloci e spesso anche i politici vorrebbero esserlo, proponendo leggi solo per far capire all'opinione pubblica che stiamo facendo qualcosa. Ma spesso non analizzano a fondo le conseguenze di queste leggi. Quindi credo che come politici dobbiamo cercare di essere veloci, ma cercando di rimanere in linea con le leggi e capire cosa si può fare, cosa non si può fare e cosa possa essere effettivamente utile. In materia di armi c'è la nuova proposta della Commissione che propone leggi più stringenti anche sulle armi civili. Non sappiamo ancora esattamente di cosa si tratti perché la Commissione non ha ancora deciso quali armi saranno incluse. Ma credo che sia necessaria molta attenzione per cercare di togliere le armi più potenti dal mercato legale, perché è facile passare dal mercato legale a quello illegale. E questa era la voce della politica, la voce di una parlamentare europea, Bodil Valero, che ha fatto riferimento a una direttiva europea che promette una stretta anche sulla vendita delle armi civili. Come questo potrebbe impattare in particolare sul mercato italiano? Sentite il prossimo ospite. Buongiorno e ben trovato. Nessun luogo lontano, Andrea Favaro. Firearms, scusate, United è una confederazione. Siete a favore di una maggiore liberalizzazione delle armi da fuoco e siete parecchio critici rispetto alle nuove direttive dopo i fatti tragici di Parigi. Favaro, ci spieghi meglio questa confederazione, che cosa fa e che ruolo ha? Allora, siamo una confederazione di volontari, sì, e di associazioni presenti nei vari paesi europei, e ci occupiamo di difendere quelli che sono gli interessi e i diritti dei possessori legittimi di armi, sì, da fuoco. Sì. Allora, perché l'abbiamo chiamata? Perché una delle tesi di Vignarca, ma non solo, è che tutto il commercio illegale di armi è una seconda vita di quello che era commercio legale di armi, per cui più si limita la prima vita delle armi, più si andrà ad impattare sulla seconda vita delle armi. Voi dal vostro punto di vista invece siete assolutamente critici su questi provvedimenti che vanno a ledere, a vostro avviso, i vostri diritti. Ci spieghi meglio la vostra posizione. Ma è molto semplice. Allora, le armi legalmente possedute dai cittadini, quindi le armi civili, non stiamo parlando di armi vendute ad enti governativi, eserciti, eccetera, quindi solo le armi possedute dai privati cittadini, sono tracciate al 100% in Europa. Sì. È impossibile per un privato cittadino comprare un'arma da fuoco e non registrarla alle autorità. Chiarissimo. Quindi adesso posso parlare della legge italiana, per esempio. La legge italiana prevede che quest'arma sia affidata appunto a un cittadino che ne ha titolo e quest'arma viene controllata dalla sua nascita, quindi dalla fabbricazione, fino alla sua eventuale distruzione. Se un cittadino si disfa di un'arma, incorre nel reato di alienazione d'arma, è responsabile penalmente per questo. Quindi il mercato illegale non si alimenta dai cittadini legali possessori. Generalmente le armi che arrivano sul mercato illegale, lo vediamo per esempio quelle utilizzate negli attacchi di Parigi recentemente, generalmente hanno provenienza da arsenali governativi di cui si è perso il controllo. Quindi rispetto alle decisioni, alle recenti decisioni o annunci di decisioni europee rispetto a una stretta e un maggior controllo sulle armi, voi che cosa rispondete? Ma appunto che le modifiche proposte alla direttiva 477 sono inutili dal punto di vista della prevenzione del terrorismo, perché per l'appunto nessun terrorista si è mai procurato le armi che ha utilizzato per gli attacchi tramite il mercato legale. Primo perché non avrebbe senso, cioè i tempi sono lunghi, non esistono armi capaci di fuoco a raffica sul mercato legale. E poi l'altro problema è che appunto se noi andiamo a guardare i prezzi sul mercato nero, quindi delle armi illegali, sono più o meno analoghi alle controparti civili. Questo significa che c'è un mercato nero fiorente con un'ampia disponibilità e che il terrorista o il criminale o chi ha molto più facile accesso sul mercato illegale, gli attentatori, quelli che hanno colpito la sede di Charlie Hebdo, si sono procurati nel giro di poche ore due fucili d'assalto automatici, due mitragliette Scorpion e perfino un lanciarazzi anticarro. Stiamo parlando di due delinquenti comuni, quindi non membri di cosche e criminalità organizzata, stiamo parlando di due persone dai mezzi modesti. Quindi le modifiche che sono state proposte alla direttiva non fanno nient'altro che limitare le tipologie di armi a disposizione dei legali detentori, che però non sono la fonte degli atti criminosi. E con quest'ultima voce, con quella di Andrea Favaro, abbiamo chiuso il cerchio, abbiamo cercato di tratteggiare quelle che possono essere anche le conseguenze di questa nuova direttiva europea, ma soprattutto nel corso della puntata abbiamo cercato di porre l'accento su quelli che sono i punti nevralgici riguardanti il traffico di armi illegale. Gli effetti tragici li abbiamo visti negli scorsi mesi e le cause sono fondamentalmente da ricercare in mancati controlli, in mancata tracciabilità di quelle armi che partono, lo ribadiamo ancora una volta, con una vita legale, con tutti i crismi, ma poi a un certo punto per delle vulnerabilità, per delle debolezze, delle fragilità del sistema di controllo, a un certo punto scompaiono, evaporano, spariscono dai radar, lì non sono più tracciabili e lì a quel punto si inseriscono le organizzazioni criminali. Questa era la puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, confezionata con Gianni Rosini, musica e ritmo dettati da Carmelo Lauricella in regia. Vi ringrazio per essere stati con noi, rinnovo i miei auguri di buone feste, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Seguitemi se volete sui social. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci, che vi ricorda che nessun luogo è lontano.